Letture di Radio 24. Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi, che in questi giorni viene riproposto dalla casa editrice Corbaccio, racconta la storia vera di tre italiani che nel 1943 evasero temporaneamente dalla loro prigione in Kenya soltanto per scalare una montagna. Un episodio che non può non far venire alla mente l'impresa dei prigionieri inglesi nel celebre film di David Lean, come scrive Pietro Crivellaro nella sua recensione pubblicata oggi sul domenicale del Sole 24 Ore. Quando ero ragazzo, tutti fischiettavano la marcetta del ponte sul fiume Kwai, resa popolarissima dal film anglo-americano con Alec Guinness e William Holden, premiato da una messe di Oscar. Chi la ricorda più quella melodia legata alla storia epica dei prigionieri inglesi che tengono testa agli aguzzini giapponesi in Indocina? Allora potevamo ascoltarla al jukebox del bar che andava a monete o gettoni, come il calcio balilla dell'oratorio. Oggi, per rinfrescarmi la memoria e farla sentire alle mie figlie, che conoscono benissimo i Beatles ma non quel motivetto epocale, mi è bastato andare su YouTube. Un salto tecnologico di anni luce, non di 50 anni. Quel film mi ritorna in mente per la riedizione di Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi, da parte di Corbaccio. Se per gli alpinisti è il gradito ritorno di un classico di montagna, per il comune lettore è parecchio di più. La riscoperta di un nostro piccolo fiume Kwai, oltretutto spoglio di ogni retorica militarista. La storia vera e pazzesca di tre italiani prigionieri degli inglesi in Kenya che tra gennaio e febbraio 1943 compiono un'evasione temporanea per scalare il Monte Kenya, l'imponente cima di 5.000 metri intravista all'orizzonte oltre i reticolati, è un episodio straordinario di microstoria patria. Bisognerebbe farlo leggere a scuola studiando la Seconda Guerra Mondiale per far capire ai ragazzi anche un po' di geografia, le prove più dure e i valori veri della vita. Dopo mesi di ingegnosi preparativi per fabbricarsi picozze, ramponi, abiti da montagna e procurarsi scorte di viveri, i tre evasi fuggono non dal Kenya, impresa davvero impossibile, ma sul Kenya, che rappresenta uno sprazzo di libertà. Senza una mappa risalgono la foresta equatoriale, sfidando le bestie feroci, superano ostacoli d'ogni genere, benché all'equatore patiscono il gelo d'alta quota finché riescono a toccare la vetta della Punta Lenana, dove piantano il tricolore. E dopo una durissima anabasi, stremati dalla fatica e dalla fame, rispuntano 17 giorni dopo all'interno del campo, puliti, sbarbati, coi capelli tagliati e le scarpe lucide, camicia e calzoncini accuratamente stirati, per farsi sbattere in cella di rigore dagli inglesi che non si raccapezzano di una fuga simile. Il libro è stato più volte riedito dal 1947, quando apparve la prima volta, e non ha perso la sua freschezza. Rileggere oggi il racconto commovente e spiritoso di Benuzzi procura anche un benefico sollievo al nostro amor proprio nazionale, così fiaccato e umiliato dalle recenti cronache. Anche all'estero è uno dei nostri titoli di montagna più fortunati, ma per meriti inconsueti, ben diversi rispetto ai resoconti delle imprese di Gervasutti, Bonatti o Messner. Non può che farci piacere sapere che quando uscì in inglese nel 1952 con il titolo No Picnic on Mount Kenya, sottotitolo A True Story, il libro fu accolto da un coro di elogi anche autorevoli. Il Times Literary Supplement lo collocò nella classe superiore dei racconti d'avventura. La BBC lo definì documento unico dell'ammirevole follia dello spirito umano e per il Manchester Evening News divenne la più fantastica storia di fuga di tutte le guerre. Tanta attenzione e consenso da parte della critica anglosassone dipendeva anche dal fatto che qui la controparte è l'esercito di Sua Maestà, mentre Benuzzi e compagni sono nemici assolutamente atipici, lontani dallo stereotipo dell'italiano cialtrone e furbastro, molto diversi dai tronfi campioni di retorica e di viltà allevati dal regime mussoliniano. Quando il colonnello comandante del campo fece accompagnare i tre fuggiaschi rientrati, era ormai al corrente della scalata. Per questo lodò a denti stretti lo spirito sportivo dei prigionieri, ma inflisse loro ugualmente la punizione prevista per l'evasione, 28 giorni di cella di rigore. Dopo 7 giorni li graziò per buona condotta, perché ancora ignorava il dettaglio che saltò fuori subito dopo e venne colto come una beffa: la bandiera avvistata da una comitiva di escursionisti inglesi, che fu tolta il giorno dopo. Il quotidiano di Nairobi ne diede ampia notizia con foto, cercando di sminuire il significato patriottico del gesto. All'opposto, quando la notizia rimbalzò in Italia a metà marzo del 43, l'Illustrazione del Popolo le dedicò una copertina piuttosto fantasiosa. La tavola a colori di Mario D'Antona, che mostra tre alpinisti in divisa e la penna sul cappello nell'atto di piantare il palo con il tricolore, ricorda e anticipa di 2 anni la famosa foto dei Marines che piantano la bandiera americana a Iwo Jima, immagine probabilmente non meno costruita a fini di propaganda. Ho avuto il piacere di conoscere Felice Benuzzi a Biella nel 1987 per la fondazione di Mountain Wilderness. Io ero nello staff come addetto stampa e lui, inviato dal fondatore del nuovo movimento Carlo Alberto Pinelli, aveva accettato di far parte dei garanti accanto a nomi illustri come Chris Bonington, Kurt Dimberger e lo stesso Messner. Entrato in diplomazia dopo la guerra, aveva concluso la sua carriera come ambasciatore in Uruguay. Morì l'anno dopo a Biella e la battagliera signora Benuzzi, benché anziana, è rimasta per molti anni una colonna della sede MV di Roma. L'idea di trarre un film dal libro di Benuzzi, apparsa naturale a vari cineasti, ha tentato a lungo anche Giuliano Montaldo. Mi svela ora Pinelli, da uomo di cinema, che una decina d'anni fa ha rievocato la fuga sul Kenya in un bel documentario per Rai 3. Una fiction ispirata al libro è stata girata di recente senza lasciare traccia, così che un vero film degno di questa storia italiana, che ci ricorda il fiume Kwai, resta da fare. Perché non ci pensa davvero la Rai? E avete ascoltato la lettura dell'articolo Scalatori e Patrioti di Pietro Crivellaro, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. In Francia il governo ha detto no ai compiti a casa. E se li abolissero anche in Italia? Interi pomeriggi liberi, feste e vacanza senza l'obbligo di aprire né libri né quaderni. Sono scenari possibili in Francia dopo la scelta del governo Hollande. Ma da noi che accadrebbe se una tradizione consolidata come quella dei compiti a casa venisse rotta all'improvviso? Ci vorrebbe un forte investimento sulla formazione in servizio degli insegnanti e l'allungamento del tempo scuola come in Francia, risponde Luciano Pasqualotto, pedagogista e direttore di Educare.it. Con un piano su misura per l'Italia che distingua le consegne esecutive come esercizi, problemi, disegni, componimenti e traduzioni dalle attività di studio. Le prime a scuola sotto la diretta supervisione degli insegnanti, lo studio a casa e non prima della terza classe. Meno cauto Maurizio Parodi, dirigente scolastico e autore di Basta compiti, non è così che si impara. Per l'Italia è fantapedagogia, però sarebbe innegabile la liberazione per le famiglie eliminando questo aggravio mentale. Immagino 8 ore di lavoro scolastico e nella migliore delle ipotesi attività linguistica, musicale e motoria in sostituzione. Nella peggiore, i ragazzi andrebbero a scuola più volentieri. La longevità delle informazioni acquisite per le interrogazioni non supera i 3 mesi. Tutti concordi nel ritenere che la risorsa più preziosa restituita a genitori e ragazzi sarebbe il tempo. Alcuni ne valutano impieghi più creativi. Si può sostituire al fare statico un fare dinamico, ipotizza Fulvio Ervas, insegnante e scrittore. Contraria è invece Loredana Perla, docente di didattica generale all'Università di Bari. Nelle formule di 27 o 24 ore settimanali non vedo perché abolire i compiti a casa. Restano educativi per 2 ragioni: il valore fondamentale dell'esercizio e lo stimolo all'organizzazione autonoma del tempo post-scolastico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefania Vitulli «E se anche in Italia abolissimo i compiti a casa?» da Panorama del 31 ottobre.